Poi ci sarà un breve break, una pausa, e riprenderemo sino alla fine con tre comunicazioni, rispettivamente del professor Giampaolo Caprettini dell'Università di Torino, insegna semiologia, per una tipologia del silenzio, del professor Emanuele Riverso dell'Università di Napoli, insegna filosofia del linguaggio, e la sua comunicazione verterà sul tema evidenza e parola, e la relazione del professor Fabrizio Fabbrini dell'Università di Siena, la cui comunicazione verterà sul tema il silenzio nel mondo greco e romano. La parola al professor Giuseppe Veschin, che è di casa e quindi non ha bisogno neppure di una mia minima parola. Essendo di casa non avrei dovuto parlare, perché nei convegni è giusto che parlino quelli che vengono dall'esterno, no? Perché la gente deve avere la possibilità di parlare. Comunque, ma avendo cose interessanti da dire, un'occasione in più per ascoltarti la sua relazione, appunto, verte sul tema poesia e silenzio. Parola al professor Pettini. Direi che a prima vista, quando uno affronta così, legge il titolo almeno di questo tema, può avere l'impressione che si tratti così di una specie di cosa un po' ricercata, un po' alambicata, eccetera. Poi, quando approfondisci un po' l'argomento, si accorge che il tema è così, è praticamente immenso. Quindi io dovrò per forza limitarmi ad alcuni aspetti fondamentali. Per esempio, dovrò tralasciare tutto l'aspetto storico del perché, per esempio, si insiste da parte dei poeti molto sul silenzio dell'epoca contemporanea, per questo senso proprio di nausea verso questa profusione di parole che ci invade. Dovrò trascurare, per esempio, il rapporto tra poesia e silenzio legato al tema della scissione tra parola ed essere, che, come sapete, all'origine era praticamente un'identità, l'abbiamo sentito anche questa mattina nella Bibbia. Dio è la parola, e Dio con la parola crea le cose, e l'uomo dà il nome alle cose, ma questo dare il nome alle cose è dare un senso anche al mondo, cioè anche nella Bibbia l'uomo è collaboratore di Dio nella strutturazione del mondo. Così, per esempio, trascurerò altri aspetti che pure di cui si è parlato questa mattina, per esempio il tema dell'ascolto, di cui ha parlato molto bene la professoressa Piumara. Il problema dell'ascolto, del silenzio per ascoltare in poesia è importantissimo, perché, per esempio, tanto per dire, adesso è ritornata di moda, diciamo questa espressione, il tema dell'ispirazione. È uscito di recente presso le edizioni pratiche di Parma un volume intitolato sulla poesia, in cui ci sono i dialoghi di alcuni poeti molto importanti come Bertolucci, come Zanzotto, come Sereni, con classi di scuola media. Ebbene, tutti parlano di ispirazione, ma poi ci sarebbe il tema dell'ascolto nel senso della fruizione della poesia. È stato scritto un bel libro su Attilio Momigliano intitolato Il silenzio della lettura. Tutto questo dovrò trascurare, cioè praticamente mi limiterò un po' così a denunciare alcuni temi che riguardano il rapporto tra silenzio e poesia, così al di là un po' della situazione storica, cioè il rapporto tra silenzio e poesia in quanto tale, cioè il silenzio che è connesso con la poesia, proprio direi in quanto tale. Partirò da Croce. Il Croce, nella poesia, che è un libro splendido, oltre che di filosofia sulla poesia, anche di poesia sulla poesia stessa, parla della poesia, sottolinea come la poesia è Juventus Mundi, come c'è in essa la presenza del divino, e insiste molto sul tema della malinconia. Cosa significa la malinconia? Direi che affronterò il tema della malinconia in tre stadi. Il primo stadio è uno stadio, così direi, immediato, quello del distacco dall'urgere delle passioni, dall'attaccamento immediato alla lotta per la vita, agli interessi immediati. Da questo punto di vista direi che non c'è poesia senza malinconia, cioè senza questo distacco dall'urgere delle passioni, dall'attaccamento alla vita nella sua immediatezza. Pensiamo a Leopardi, qui ci sono delle splendide pagine del Momigliano in cui egli sottolinea come il Leopardi vive la sua poesia vivendo come sulla soglia della vita. Cioè le sue poesie sono come delle estasi che si staccano da un sottofondo di malinconia e di solitudine. possiamo dire che nella poesia del Leopardi c'è come un duplice piano, il piano dell'immediato, del fatto quotidiano, e dietro c'è un'altra realtà, l'infinito, che può essere un infinito che dà tristezza, che dà disperazione, ma può essere anche un infinito che dà gioia, come appunto l'infinito di cui si parla nell'infinito stesso. Quindi, senso di malinconia, di distacco dalla vita, di solitudine. La solitudine nella poesia del Leopardi è tema dominante. Comincia la grande poesia del Leopardi proprio dalla tematica della solitudine. All'Italia, i soldati italiani che muoiono nelle immense steppe della Russia, abbandonati in questa solitudine desolata. Ma poi non possiamo pensare ai più celebri versi del Leopardi senza questo senso di solitudine, paghe stelle dell'orsa, così il biancheggiar della recente luna, tutti i versi che si mettono in un ambito di solitudine, e la solitudine è tutta pervasa di silenzio, silenzio talvolta domestico, altra volta cosmico, ma sempre sublime. E il silenzio vibra in spazi interminati e sembra contribuire a rendere ancora più profondi e ancora più estesi. Ma potremmo pervenire più vicino a noi, parlare di Carducci, basti pensare a Sonetto a Virgilio, oppure Presso una Certosa, oppure Sole d'inverno, in cui la poesia come dono divino viene a rallegrare il poeta per la tristezza del distacco dalla vita. Ma direi che un argomento a fortiori può essere proprio quello del D'Annunzio. Il D'Annunzio è sempre stato considerato un poeta estroverso, un poeta attaccato alla vita. Si è parlato a proposito di lui di poetica strumentale, si è parlato di linguaggio del corpo. Ebbene, l'atteggiamento dell'Annunzio dimostra come la poesia sia impossibile senza questo distacco dalla realtà nella sua immediatezza. E Flora dice che la parola è usata dal D'Annunzio in due maniere: o in una maniera che serve all'azione, che si identifica con l'azione, oppure in un altro modo, mediata liricamente, come distacco dall'azione per cui diventa ricordo. E quando noi parliamo di ricordo non possiamo dimenticare un poeta come il Pascoli, il quale dice che il ricordo è poesia e la poesia è ricordo, cioè sempre distacco dalla vita. Non possiamo trascurare il poeta della memoria per eccellenza che è stato Proust, il quale però, ecco, per approfondire quanto dicevamo prima sulla scorta di Mersault, parla di due tipi di memoria: una memoria che è attaccata alla vita concreta e una memoria invece che è staccata dagli interessi della vita concreta, e per questo ci fa cogliere le cose nella loro pienezza, nella loro interezza, perché la vita concreta ci spinge a schematizzare, perché ci spinge a badare soltanto a ciò che immediatamente. Quindi, distacco dalla realtà, potremmo dire, per conoscerla meglio. Ed è questo anche l'atteggiamento, per esempio, dei formalisti russi, con il famoso procedimento dello straniamento, no? Lo straniamento che è vedere le cose da un altro punto di vista, al fine, staccandosi dalla vita immediata, al fine di coglierne meglio. Noi possiamo dire allora che il distacco dalla realtà che è procurato dalla malinconia nel suo senso più immediato avviene per farci conoscere meglio le cose. Ma è sempre stato sottolineato dagli estetologi, ma anche dai poeti, che a questa conoscenza più profonda delle cose corrisponde anche una più profonda conoscenza del nostro io. Insomma, è un cambiare di livello. Ma noi possiamo chiederci, questa conoscenza più profonda delle cose di noi stessi, da dove scaturisce? A quale livello si ha? Noi potremmo rispondere a questo se approfondiremo un pochino il concetto di malinconia. E qui seguo un poco il Guardini, il quale, come sapete, è un piccolo saggio, ma è un gioiello, in cui sottolinea il ritratto della malinconia, in cui sottolinea come la malinconia sia l'insoddisfazione delle cose esterne, perché noi ci aspetteremmo da loro che fossero infiniti, invece purtroppo ci deludono. Quindi l'uomo dominato dalla malinconia, come tutti i grandi malinconici, tende a rientrare in se stesso per trovare un porto sicuro, e rientra in se stesso nel silenzio e nella raccoglienza. Ma chiederemo, dove rientra l'uomo? Ecco, direi, la risposta immediata rientra nel cuore. Quando noi parliamo di cuore, non dobbiamo intendere il cuore certamente come organo fisiologico, tanto nemmeno come organo di sentimenti superficiali. Nella tradizione biblica il cuore è il centro dell'uomo, da cui dipartono tutte le sue facoltà e in cui si incontrano, quando si incontrano veramente, sia Dio che le altre persone. E qui, direi, nel Novecento c'è una rivalutazione di questo centro dell'uomo. E noi possiamo pensare, per esempio, all'importanza che hanno i sentimenti come rivelativi nella filosofia del Novecento, la noia, l'angoscia. Ebbene, questi sentimenti sono rivelativi, non per in quanto non sono dei sentimenti superficiali, ma sono dei sentimenti che colgono la profondità dell'essere umano e il suo atteggiarsi nei confronti della realtà e nei confronti dell'essere. Ora, se la poesia borghi dal cuore, è un detto, è un modo di esprimersi praticamente unanime da parte di tutti i poeti. Ricordo ancora il Leopardi, il quale dice che il Petrarca è grande poeta perché nella sua poesia riversa il suo cuore invece di lottomizzarlo come fanno tanti altri poeti. E quando parla del Monti dice poeta d'orecchio non di cuore. Quindi la poesia scaturisce dal cuore. Ma potrei ricordare Goethe, il quale dice che le cose che noi vogliamo nella poesia passano attraverso il cuore. Potrei ricordare Rimbaud, per il quale la poesia scaturisce dalla conoscenza profonda del senso del nostro essere. Pensiamo soltanto al significato del termine cuore a della settima e non a elegia di Rilke, dell'elegia di Rilke, ma pensiamo a Montale, il quale Montale riprende un'espressione dantesca, il lago del cuore. Ricordate Dora Maggius, quel lago di indifferenza che è il tuo cuore. Ecco, perché lago? Per dire sì che il cuore è sempre qualcosa, se volete, di circoscritto, ma estremamente profondo. È proprio il Montale dice esplicitamente che la poesia nasce da un sottofondo che gli uomini non conoscono. E il Montale aggiunge a un certo punto: io quando scrivo poesia, più che scrivere mi sento scritto, è un qualcosa di più profondo di me. E questo lo dice nella famosa intervista immaginaria. E lui si chiede: allora, scritto da chi? Lui dice: io non dico da chi. Ambiguità. Ancora un'altra ambiguità. Le ambiguità in poesia non sono sette, come diceva Empson, ma sono infinite. Ho detto Montale. Dorfler, un critico contemporaneo, tanto per direi per fare un po' un panorama, dice che la poesia scaturisce da una conoscenza che è più profonda della conoscenza razionale, che noi potremmo chiamare sopra razionale o se volete irrazionale, non perché sia contro la ragione o l'intelligenza, ma perché è così densa che non si può cogliere. E infine, direi ultimo, ma non ultimo certo come importanza, Heidegger, commentando la poesia di Hölderlin, dice: Hölderlin quando fa poesia si pone al centro dell'essere umano. Ma noi parliamo del silenzio. Che rapporto c'è tra cuore e silenzio? Beh, anche qui cominciamo da quello che potrebbe essere un poeta sospetto come Dannunzio, il quale dice che le sue poesie sono stillanti in silenzio che scaturiscono dal cuore e esse portano a galla un aspetto di se stesso che egli non sa più comprendere la poesia. Ma i Pascoli mettono in rapporto la poesia con il cuore e con il silenzio nella poesia di Cero, evidentemente una denominazione così per dire, per parlare di Omero, e in cui parla, dice: tu solo nel tremante cuore udrai parole degne dei silenzi opachi. Quindi cuore messo in rapporto con il silenzio. Però il concetto più profondo di silenzio lo colgo ancora meno, esplicitato a livello di poeti contemporanei, faccio spesso riferimento a poeti vicini a noi proprio anche per comodità di ascoltare, lo trovo in Montale. Nella splendida poesia Voce giunta con le folate. Voi sapete che in questa poesia il poeta assiste a un dialogo tra il padre morto e una figura di donna. Voi sapete che la donna Montale diventa in un certo senso manifestazione di Dio. e il padre si mostra preoccupato di essere dimenticato dal figlio, e la donna è apparsa e dice che deve staccarsi da queste preoccupazioni, e cioè in fondo per montare la memoria è un qualcosa di negativo quando è troppo altruistica, quando è troppo egoistica, quando è troppo personale. Quindi, in sostanza, noi per cogliere la vera realtà delle cose dobbiamo andare al di sopra di ogni interesse. Quindi, in un certo senso, accostarci a quel fondo oscuro dell'anima in cui c'è una specie di ricordo del mondo, del soframondo. Montale giustamente parla di oscuro senso reminiscente, quasi platonica, appunto, il fondo dell'anima che è al di là di ogni parola e di ogni immagine. Allora, qui vogliamo il significato autentico, almeno del rapporto, che è quasi negativo, tra poesia e silenzio, cioè il silenzio come condizione della poesia, come far posto perché nasca la poesia. E cioè il silenzio è fondato sul disinteresse, sul distaccamento. Colgo questo tema nelle righe di una carmelitana contemporanea, la Erbstritt, una carmelitana di Colonia, la quale dice che il silenzio è un lasciare essere le cose per quello che sono, un lasciare essere l'uomo per quello che è, un lasciare essere Dio per quello che è. Allora, se la poesia coglie la realtà profonda delle cose di noi stessi, la poesia senza il silenzio è assolutamente inutile. E da questo punto di vista mi richiamerei all'affermazione di Rilke di lasciare essere le cose, e anche alle affermazioni di Proust, l'atteggiamento di Proust, che è ben descritto da Giacomo De Benedetti, quando appunto analizza le strategie di Proust per far sì che le cose rivelino il loro segreto. Direi che questa tematica è un po' riassunta da Goethe, il quale dice che noi per essere poeti dobbiamo cogliere le cose attraverso il cuore. E il cuore, che è questo centro profondo della personalità, coglie le cose nella loro vera natura soltanto perché le coglie in rapporto all'origine, in rapporto alla scaturigine prima della natura. È un altro motivo per cui la poesia è legata al silenzio. Voi sapete che Heidegger, nel saggio sull'origine dell'opera d'arte, dice che l'opera d'arte porta su di sé impronte sempre come scritta la sua origine, il fatto di essere prodotta. Quindi le cose nella poesia vengono sempre messe in rapporto con l'origine. Cioè, anche una poetessa russa, detta Eva, dice che quando un poeta scrive, non dovrebbe pensare di essere guardato da persone umane, ma essere guardato da Dio. Ovviamente, l'origine è identificata con Dio, Heidegger, l'origine non è Dio, è l'essere, però sempre è un rapporto con l'origine. Vorrei ricordare ancora una poetessa, una grande poetessa americana, Emily Dickinson, la quale dice la solitudine più profonda, più polare, è la solitudine di un'anima. Le altre solitudini sono soltanto solitudini superficiali, ma in questa solitudine noi incontriamo l'infinito. Quindi è una solitudine infinito e infinito. E d'altra parte, sempre Giacomo De Benedetti sottolinea come in Proust noi abbiamo lo sforzo di arrivare a quel livello in cui l'uomo religioso incontra. Quindi il poeta vede le cose nella loro profonda natura perché le vede come scaturiscono dall'origine. Certo, Proust non parla di Dio, in senso stretto, però si pone nello spazio in cui si può incontrare Dio. E da questo punto di vista direi che un tema importante è quello del rapporto tra origine e infanzia. E questa è una tematica molto sviluppata, per esempio, da Bachelard. Bachelard dice che l'infanzia è ricordo non di singole cose, ma di una totalità di essere di cui l'uomo ha sempre nostalgia. Per questo ricordo dell'infanzia, che è ricordo dell'origine, diventa anche il nostro futuro, perché l'uomo tende verso questo infinito. E questa tematica, ancora una volta, è mirabilmente espressa da Leopardi, il quale dice che i fanciulli, quando immaginano sempre in rapporto all'infinito o all'indefinito. Voi sapete che Leopardi per un certo periodo, per un certo periodo scrive infinito e poi scrive indefinito per evitare proprio il fraintendimento che lui pensasse. E anche qui però per il Leopardi questo passato diventa un futuro, nel senso che la tensione dell'uomo è sempre verso l'infinito, anche se non lo raggiunge. Allora, possiamo dire che nella la poesia, nell'opera d'arte, le cose nell'opera d'arte sono un rapporto all'origine, ma così sono un rapporto con il silenzio. Perché che cos'è l'origine? Chiamiamola questa origine essere di Heidegger, chiamiamola natura, chiamiamola come dice un pensatore contemporaneo, malinconia di Dio, chiamiamola il Dio cristiano, sempre di silenzio si tratta. Infatti, e ritorneremo su questo tema tra poco, Dio è il silenzio perché appunto noi lo possiamo appena conoscere come non conosciuto. Come diceva benissimo il professor Quinzio questa mattina, l'unica lode degna di Dio è il silenzio. E vorrei ricordare a questo proposito le affermazioni di un poeta contemporaneo, Mario Luzzi, in cui dice questa affermazione, che egli ha scritto alcune poesie in gregoriano. Che cosa vuol dire in gregoriano? Il gregoriano è un canto che parte dal silenzio e va a Dio come silenzio. Cioè, Clément, un grande teologo ortodosso contemporaneo, dice che i monaci quando pregano, la loro preghiera parte fin dall'alluce del cielo. Quindi c'è tutto come un alone di silenzio che circonda questa preghiera, il silenzio che va al silenzio. E allora Luzzi dice, il silenzio non è che sia nessun linguaggio, è un linguaggio da cui si diparte la parola, ma la vera parola che si diparte dal silenzio ha nostalgia di tornare al silenzio, specialmente quando il discorso si fa verticale. E allora, dice Luzzi, noi abbiamo che la parola non soltanto tende a ritornare al silenzio, ma quando il discorso si fa verticale, la parola diventa impregnata di silenzio. Da questo punto di vista vorrei solo accennare, perché direi che una trattazione possibile del silenzio nella poesia è proprio questa, la ricchezza inesausta della poesia. Cioè la poesia, vicino all'esplicito che c'è nella parola come è detta, comprende, cattura un infinito di implicito che noi possiamo approfondire indefinitamente. Ognuno di noi, ritornando su determinati versi, trova a servire un qualcosa di più profondo. Ognuno tra noi diverso, ognuno di noi troverà sempre un qualcosa di diverso. Per esempio, se noi volessimo approfondire la ricchezza inesausta di riferimenti, di allusioni che si trovano in versi come quello dell'infinito di Leopardi, in determinati spazi sovrumani silenti, profondissima quiete, allora possiamo dire che in un certo senso la poesia parte dal silenzio, silenzio nostro come apertura e va verso il silenzio. E da questo punto di vista vorrei ricordare un po' l'itinerario di un poeta contemporaneo di un certo rilievo, Giuseppe Conte, il quale dice: io parto dal silenzio, dalla solitudine, vado verso il silenzio, verso un qualcosa di misterioso che non si può esprimere, anche se io dice lo intendo in senso laico, e poi però ritorno alle cose, e le cose come le vivo amandole, quindi amore, e poi scrivo la mia poesia come atto d'amore, come tendere una mano nel buio aspettando che uno la stringa, perché quando io scrivo poesia, come vedremo subito, praticamente propongo un mondo diverso, un mondo diverso. Ma se vogliamo fare un passo avanti per illustrare qualche altro aspetto di questa tematica, di silenzio, possiamo dire questo, che il poeta vede le cose, vede il loro rapporto all'origine, ma ogni poeta le vede in maniera inconfondibilmente diversa. E la tematica che ormai non è più nuova, dopo l'ermeneutica, della persona come prospettiva su lei. Ogni persona vede la bellezza, la bellezza, la verità, la bontà in maniera diversa, vede le cose e ordina le cose in maniera diversa. Quindi il poeta esprime questa sua visione creando l'opera. E come concretizza questa sua visione? La concretizza attraverso il linguaggio. Voi mi direte, come si fa a concretizzare una visione del mondo, praticamente un mondo, perché insomma adesso voi sapete che il concetto di mondo, ormai penso che siano cose abbastanza pacifiche, il mondo non è più la somma delle cose, il mondo, anche serianamente, sarà un insieme, un rapporto di significati, sarà un insieme di criteri per giudicare, per orientarsi nella realtà, sarà la visione, l'ordinamento che dà una persona alla realtà. Allora, il poeta, praticamente, nella sua opera, e come lo ha? Lo ha attraverso il linguaggio. Voi mi direte, ma com'è possibile che attraverso il linguaggio si apra un mondo? Direi che anche questo ormai è un'affermazione abbastanza pacifica. Per esempio, pensiamo a Humboldt, cioè il linguaggio, come struttura, come è strutturato grammaticalmente, sintatticamente, in fondo esprime un modo di vedere le cose, quindi esprime un mondo. E allora, come nuova è la visione delle cose che ha il poeta, nuovo deve essere anche il linguaggio. E voi allora capirete anche il perché, a proposito di poesia, si parla di verginalità della parola poetica, di novità, del fatto che la parola poetica è come se fosse pronunciata per la prima volta. Quindi possiamo dire che il poeta, formando la sua parola, forma anche il contenuto, cioè forma un mondo, un modo di vedere la realtà. E appunto nella parola poetica ciò che è spirituale, ciò che non si può vedere e toccare, diventa in un certo senso visibile e tangibile. Ma noi abbiamo detto che il poeta vede le cose in modo più elevato, in modo più bello, perché le vede come se esse lo scaturissero allora dall'origine. Ebbene, allora possiamo dire che il poeta sempre si presenta un mondo più bello di quello che c'è. Cioè, si presenta, voi sapete che a livello soprattutto di Novecento si è parlato molto del rapporto tra poesia e utopia. Cioè, la poesia in fondo è sempre contestazione di quello che c'è già, della situazione che c'è già, in vista di una situazione più elevata, di una situazione più bella. Certamente, questo non è che possa fare pensare chissà a quali miracoli, a quali innovazioni straordinarie. Basta pensare che, per esempio, non so, ci sia un mondo dove l'amicizia è rispettata per quello che è, dove l'amore è vissuto in una certa maniera. Quindi, questo mondo migliore, per esempio, se noi prendiamo due opere molto diverse tra di loro, come La Tempesta di Shakespeare e come I Promessi Sposi di Manzoni, vediamo che il mondo che aprono queste due opere, alla conclusione, è un mondo dominato dalla razionalità, dall'equilibrio, dal senso della finitudine, dal senso del limite. Ma allora, perché abbiamo parlato della poesia che apre un nuovo mondo? Per parlare ancora una volta del rapporto, dicevo, tra poesia e silenzio. Ebbene, direi questo rapporto noi lo possiamo cogliere almeno così immediatamente nella celebre Pioggia del Pineto di Gabriele D'Annunzio, il quale dice a Ermione: taci, non odo parole che dici umane, odo le nuove parole che parlano gocciole e foglie lontane, cioè le parole del mondo precedente non contano più, bisogna fare silenzio, bisogna entrare in un altro mondo e quindi un mondo nuovo, diverso, che esclude il mondo come era prima. E quindi voi capite anche un altro fatto, come per la fruizione dell'opera d'arte, lo sottolinea Gillo Gorfles, ci vuole sempre un intervallo. Noi siamo dominati, dicevo, dalla chiacchiera, dalle parole, dai suoni, eccetera. Ebbene, per fruire veramente dell'opera d'arte, per quello che essa è, veramente dobbiamo dimenticare tutto questo, dobbiamo separarci da tutto questo per entrare in un certo senso in un altro ambito. Però noi abbiamo parlato più volte di malinconia e direi che a questo punto noi dobbiamo ancora parlare di malinconia per l'ultimo passaggio. Perché una volta che il poeta ha creato la sua opera, un'opera che presenta un mondo migliore, che è anche dominato dalla gioia perché è riuscito a incarnare la bellezza nella sua opera, a un certo punto è anche preso di nuovo da una grande malinconia. Perché? Perché egli si accorge che anche l'opera d'arte è finita. E invece la sua tensione è verso l'infinito. da questo punto di vista direi che consuolano tra loro studiosi, pensatori, poeti anche molto lontani tra loro. Pensiamo per esempio a Poe e Croce. Il Croce dice che la bellezza attende il mondo ricoperto da un vento. E Poe dice che il toro della malinconia è il tono poetico per eccellenza. Perché il poeta vorrebbe cogliere tutte le ricchezze divine entusiasmanti che la poesia lascia soltanto intravedere per brevi attimi. A questo punto di vista penso che abbia ragione Agostino Lombardo, che insegna letteratura inglese all'Università di Roma della Sapienza, il quale in un libricino che è frutto di una conferenza intitolato Il testo e la sua performance dice delle cose meravigliose su questo dramma della poesia contemporanea, il dramma della finitudine dell'arte e della tensione all'infinito. Il poeta è insoddisfatto dell'opera che ha prodotto e tenderebbe verso l'infinito, a cogliere l'infinito. Quindi anche l'arte è finita, e questo tema è presente nella famosa Ode all'urna greca di Keats, di cui ha dato una mirabile lettura il professor Caracciolo. Ebbene, tensione verso l'infinito, ancora una volta tensione verso il silenzio, verso l'esprimibile. La poesia della tradizione, quando ha teso, si è protesa, accoglie in qualche maniera l'infinito, si accorge che con la parola usata nel senso comune non ci riesce. E allora ha cercato con la musica, con la luce, ricordate Dante, la commedia, tutta dominata da questi temi, e poi come ultima risorsa il silenzio, il tema dell'ineffabilità, per esempio nella Divina Commedia di Dante, è un tema molto bello e molto interessante, sul quale è uscito un libro anche di recente. Ma anche un poeta, per esempio come il Manzoni, che sembrerebbe un poeta credente, che quindi così pacificamente parli di Dio, dandogli del tu, è estremamente reticente quando parla di Dio, preferisce farlo ricorrendo il simbolo, per esempio il simbolo della luce. Ricordate che quelle fondamentali opere del Manzoni, come Ermengarda e Lucia, per resto buona Lucia, simboleggiano, sono una specie di incarnazione della luce, che è l'immagine, tra le immagini più alte che l'uomo possa avere su questa terra di Dio. Questo è il rapporto tra luce e Dio e divino, è antichissimo da Platone in maniera esplicita, e giù poi nel Medioevo, eccetera. Luce che non è soltanto conoscenza, ma è anche. E poi ricordiamo che il Manzoni ci ha dato due manifestazioni dell'esperienza religiosa tra le più alte, proprio collegando l'esperienza religiosa con il silenzio. Penso per esempio all'attraversamento del diacono, al diacono Martino che attraversa le Alpi della Delphi, e a Renzo che è uscito da Milano si avvia verso l'Adda, di cui sente appunto da lontano la voce. Ma direi che da un certo punto di vista, dal punto di vista storico, un po' la figura emblematica della concezione del rapporto tra poesia, così è assoluto, la possiamo trovare in Leopardi, il quale ci presenta appunto questa concezione, questa visione dell'infinito, come nulla, come nulla, però non nulla assoluto, c'è anche questo in Leopardi, come notato direttamente il professor Caracciolo, ma come nulla religioso. Ma direi che se questo tema è un tema estremamente attuale, che noi troviamo per esempio anche in Montale, noi troviamo che la vita umana, l'uomo non è fine in se stesso, è proteso verso un qualcosa di più alto, ma questo qualcosa di più alto non si definisce, non è il Dio di nessuna confessione, è un nulla religioso, è uno spazio di Dio, è Dio concretamente. Ma direi, almeno secondo me, ovviamente non posso regalare come in tutto, ecco, le espressioni più alte per rapporto con il divino, il Leopardi, non si trovano appunto a questo livello, ma piuttosto nella bellezza. Voi sapete che il Leopardi ha scritto delle pagine mirabili sul suo disinteresse nel produrre l'opera poetica, produrre un'opera bella purché sia bella anche se nessuno la riconosce come tale. Ora, la bellezza per sua natura sempre qualcosa di così perfetto che non può essere, almeno questo è il senso nostro, che non può essere, se vogliamo, la realtà nella sua profondità, l'uomo su, la bellezza con mondiale sta crescendo. E quindi direi che il senso della bellezza che presenta il leopardi è un suo modo, anche se non è a coscienza, di cogliere questo rapporto con l'assunto. E c'è un verso mirabile: tu sai, tu certo sai, per qual suo dolce amore rida la primavera. Questo è un verso del canto notturno del pastore errante, che dice come la bellezza sia un dono e sia allusiva di qualcosa di più alto, anche se il poeta non sa dire queste cose. Però mi pare che la manifestazione più alta di Dio, anche se diceva magari contro il Dio, inteso esplicitamente il Dio cristiano, eccetera, è un leopardi. La tematica dell'amore ha la sua manifestazione più alta certamente nella ginesta, ma il leopardi, come è stato giustamente notato, quando parla della sua infelicità ha sempre un cuore fraterno e comprende i dolori e le sofferenze di tutti gli uomini. E c'è un passo dello Zibaldone in cui dice: io sono nato per amare, e parla di un amore totalmente, un amore che è altruismo assoluto. Ecco, ebbene, un amore come questo, ancora una volta, non può essere frutto soltanto dell'uomo, deve essere la manifestazione di un qualcosa di più alto. Ebbene, in questo, direi che da questo punto di vista, il leopardi nella ginestra ricorda altri momenti altissimi della poesia universale, come per esempio quando Relia, che viene abbandonata dalle figlie fuori dal castello, cerca rifugio perché c'è l'uragano nella capanna, sta per entrare e fa passare prima di tutto il fondo, e prima di entrare ancora pensa a tutti i poveri che non hanno nemmeno questa capanna. E poi penso ovviamente per esempio alla tematica dell'amore, la manifestazione di Dio in Dostoevskij. Pensate soltanto ai fratelli Karamazov, quando Mitya dice: io avrei dovuto uccidere mio padre, se non l'ho fatto è stato qualcuno misericordioso che mi ha fermato. Pensate per esempio a Gagliosha, mi perdona il fratello che ha ucciso il padre. Pensate ad Alyosha, che alla conclusione dei fratelli Karamazov parla con i ragazzi che sono vicini alla tomba del loro compagno dell'amore, del perdono, e sembra veramente di vedere che sta nascendo l'alba di un nuovo giorno. E direi che questa tematica dell'amore sembra, anche se sembra così un qualcosa di magari un po' di giusto, eccetera, Montale non è, ma troviamo presentissimo di Montale. Montale, che è una delle poesie più belle di Montale, Ivide, Montale dice: questa poesia io l'ho scritta sognando una lingua e traducendo da una lingua che non conosco. E Ivide chi è? Ivide è la continuazione del sacrificio della croce di Cristo. Lei soffre, patisce e in un certo senso paga per tutti noi. Bene, questa tematica in Montale è presente, per esempio, nell'anguilla. L'anguilla, che come saprete è un tema molto presente in Montale, per Montale l'anguilla è il simbolo dell'amore, perché per dare la vita. Ebbene, sebbene però Montale veda in un certo senso la manifestazione più alta di Dio nell'amore, non cambia parere, non dice che il nulla religioso si riempie, diventa un Dio determinato. Appunto perché possiamo dire che l'amore è un mistero, è un qualcosa che non si può esprimere attraverso parole umane. Qui direi che mi soccorre quello che dice Kafka, di cui del resto ha parlato molto bene il professor Quinto, il quale dice: la nostra parola cerca il possesso, è dominato dalle categorie del possesso, invece l'amore evidentemente è dono. Allora, dice, quando noi parliamo del nostro essere, vediamo che il nostro essere indica indipendenza, autonomia, ma dai, in tedesco, dice Kafka, indica anche appartenere. Ora, nei rapporti con l'assoluto, noi non possiamo dire che siamo autonomi, possiamo impossessarci delle cose e impossessarci anche di Dio. Perché tante volte veramente l'unica preoccupazione anche degli uomini religiosi è l'attenzione dell'uomo a Dio per soddisfarci. Noi possiamo dire che se veramente all'origine, alla scaturigine di tutto c'è l'amore, quello che domina non è il possesso, ma è il dono e l'appartenere. Perché quando uno ama, appartiene sempre agli altri, perché l'amore è per sua natura. Quindi, con il nostro linguaggio, noi non possiamo mai esprimere il dono dell'amore, la natura profonda dell'amore. E quindi noi di fronte all'amore possiamo fermarci soltanto con lo stupore e con il silenzio. E da questo punto di vista, cose molto interessanti, ovviamente apprendendo in un certo senso, però che possono essere stimolanti. Dice anche, per esempio, Pirandello, i quaderni di Serafino Bubbio, operatore, quando Serafino Bubbio si dà proprio all'altruismo, a un certo punto diventa silenzioso, perché dice, se io parlo, con la parola cerco di impossessarmi degli altri, invece nei riguardi degli altri, io devo essere soltanto aperto, devo lasciarli essere. E ancora nella novella, il silenzio, quando quel ragazzo la mamma è morto il papà, la mamma ha un figlio con un altro uomo e lui si prende ad amare veramente questo ragazzo e quando la mamma muore il papà, vero, lo vuole e lui non capisce questo e allora uccide se stesso, uccide anche il ragazzo appunto perché il linguaggio del possesso che è il linguaggio comune non capisce il suo linguaggio dell'amore. Per cui a un certo punto quando la poesia anche si ferma di fronte alla rivelazione di Dio come amore, bene, anche di fronte a questo, la poesia deve stare in silenzio, soltanto dominata dallo Spirito. Ringraziamo il professor Pettin per aver colto i nessi di fondo che legano il silenzio e la parola poetica. Ringraziamo anche per i molti dati che ha portato la discussione, i tanti elementi con cui ha arricchito il suo intervento. E questo è uno dei temi classici, rapporto tra poesia e silenzio. E Claudel scrive appunto che il vero poeta è un seminatore di silenzi. Rimbaud, facendo un proprio bilancio spirituale, la propria avventura poetica, dichiara di essere stato un maître du silence, il poeta come seminatore di silenzi, come Eluard che scrive... Le poesie hanno bisogno di grandi margini bianchi, grandi margini di silenzio. Il tema del silenzio, che si dica la parola poetica, è un tema forte del dibattito anche contemporaneo.